Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio a marzo del 1857. Terremoto, incendi in Giappone, 100.000 vittime nella zona di Tokyo. L'imperatore Francesco Giuseppe in visita a Milano, accoglienza fredda nonostante l'amnistia. Stati Uniti, la Corte Suprema, gli schiavi sono proprietà privata. Accusato di offesa al buon costume per il romanzo Madame Bovary, è stato assolto lo scrittore Flaubert. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Tra un attimo le cronache dall'Italia, ma prima gli aggiornamenti sul violentissimo terremoto che ha colpito il Giappone e la zona di Tokyo. Sono state migliaia le vittime per il sisma, ma peggio hanno fatto gli incendi che sono scoppiati subito dopo, con le fiamme spinte da un vento che ha soffiato fino a quasi 100 km all'ora. Complessivamente i morti sono stati oltre 100.000. E ora veniamo alla situazione italiana, con la tensione e la freddezza che hanno accompagnato la visita di Francesco Giuseppe e di Sissi a Milano e in Lombardia. La politica dello charme non funziona, almeno con i sudditi italiani appartenenti alla nobiltà. Dopo il mezzo flop di Venezia, il 15 gennaio l'imperatore Francesco Giuseppe e l'imperatrice Elisabetta, la bella Sissi, sono arrivati a Milano ad accoglierli una freddezza che ha subito vanificato l'offensiva mondana in cui molto sperava il governo austriaco. La parola d'ordine tra i nobili è ostentare distacco, ma nell'opinione pubblica filtra addirittura ostilità. Carlo Tenca, per esempio, si è rifiutato di dare la notizia della visita nel suo giornale Il Crepuscolo. A Torino addirittura la Gazzetta del Popolo ha dato l'annuncio listato a lutto. Forse anche per questo l'imperatore ha concesso un'ampia amnistia che consente a molti esuli di rientrare nel regno, ha assicurato sovvenzioni ai teatri e ha fatto restaurare il refettorio delle Grazie con il cenacolo di Leonardo, e poi ha abbassato le tasse, ha fatto prosciugare una palude nei pressi dell'ospedale. Alla fine qualche popolano milanese ha cominciato ad applaudire, anche se l'aristocrazia è rimasta sulle sue. In marzo, tra l'altro, è andato in pensione dopo 72 anni di servizio il feldmaresciallo Radetzky. È stato sostituito da Ferdinando Massimiliano, fratello dell'imperatore, che è affabile e intelligente. Vale poco, invece, si dice, il nuovo capo dell'esercito austriaco in Italia, l'ungherese Giulai. Paolo Piacenza, al Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. La Suprema Corte degli Stati Uniti ha preso una decisione che potrebbe avere effetti politici devastanti, viste le tensioni che si registrano fra abolizionisti e favorevoli alla schiavitù. Secondo la Corte, gli schiavi non sono tutelati dalla Costituzione americana e non sono cittadini americani. Inoltre, qualsiasi legge che limiti la schiavitù viola il diritto di proprietà privata sancito dalla Costituzione stessa. È durato un mese a Parigi il processo allo scrittore Gustave Flaubert e si è concluso con una soluzione. L'accusa è di aver offeso il buon costume con il suo romanzo Madame Bovary, pubblicato a puntate sulla Revue de Paris. Ora che l'autore è libero dalla censura, sta pensando a pubblicare un vero e proprio libro, sfruttando anche la notorietà che gli è arrivata con il processo. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Andate a visitare il nostro blog, la nostra pagina Facebook, scriveteci là, oppure a gazzettino@radio24.it. Scaricate il nostro foglio quotidiano da www.radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.